in primo piano. Lunedì 6 giugno, una rapida carrellata di alcune aperture di quotidiani. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì: fisco, riforme vincolate, il costo del lavoro pesa sull'IRAP delle imprese per 14 miliardi. C'è un interessante articolo su come è allo studio, e sarebbe allo studio, la riforma fiscale tanto annunciata. Il titolo di apertura del Corriere della Sera sul calcio: scommesse, così la Camorra scommetteva, una telefonata, il Siena ha pagato per vincere. Poi c'è anche in apertura, in taglio alto, una lettera del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che interviene rispondendo all'artista, lo scrittore Claudio Magris, che ha parlato di assuefazione nei confronti delle tragedie dei migranti nel mare. Giorgio Napolitano: una reazione morale contro l'indifferenza. Questa è la lettera spedita al Corriere della Sera, pubblicata in prima pagina. Per Repubblica: governo, le condizioni di Bossi, sì di Berlusconi o voto anticipato. Per La Stampa: PDL e Lega in pressing su Tremonti. Mentre il Giornale, l'apertura di oggi è sul referendum, il mercato del quorum, referendum in vendita. Queste alcune aperture. Intanto voglio partire da due segnalazioni che ho trovato, una su Repubblica e una sul Corriere, entrambe dedicate, due storie diverse, a vicende di terrorismo. Su Repubblica, ce lo siamo dimenticati, ma Cesare Battisti lancia l'allarme Repubblica: il Brasile è pronto a liberare Battisti. I parenti delle vittime faremo causa. È mercoledì, il giorno decisivo, racconta Omero Ciai su Repubblica, pagina 22. Mercoledì ci sarà la decisione sull'ex terrorista accusato di 4 omicidi al centro di una richiesta di estradizione per il quale il Brasile si è rifiutato di consegnarla all'Italia. Ebbene, mercoledì è il giorno, secondo Repubblica, nel quale Cesare Battisti molto presumibilmente verrà rilasciato libero. Perché ora si trova ancora in carcere, ci sarà l'ultima decisione, si sceglierà se confermare il parere dell'ex presidente Lula, che come ultimo gesto confermò il rifiuto del suo ministro di giustizia Tarso Genro di estradare Battisti in Italia. È abbastanza difficile che il Supremo Tribunale riveda quella scelta di lasciare al Presidente l'ultima parola, e dunque è abbastanza presumibile che Cesare Battisti possa essere rilasciato, anche se, racconta Repubblica, a quel punto, essendo un immigrato illegale, dovrà attendere probabilmente ai domiciliari la regolarizzazione amministrativa della sua situazione. Ma certo, sembra a un passo, mercoledì, dalla libertà Cesare Battisti, ricordiamo, condannato a 4 ergastoli per 3 omicidi diretti e l'ideazione e organizzazione di un altro omicidio negli anni 70. La seconda storia di terrorismo è raccontata dal Corriere della Sera da Giovanni Bianconi a pagina 24. La figlia di Roberto Peci: aspetto di incontrare gli assassini di mio padre. È la storia di Roberta Peci, che è la figlia di Roberto Peci. Chi era Roberto Peci? Per chi non se lo ricorda, era il fratello di Patrizio Peci, che era il primo pentito del terrorismo di sinistra e che per questo fu rapito dai brigatisti, fu tenuto prigioniero 54 giorni e poi ucciso in quanto fratello, appunto, del primo pentito delle Brigate Rosse. Oggi la figlia di Roberta Peci, che non era ancora nata, perché era in grembo della madre, non era ancora venuta alla luce quando fu ucciso il padre, dice: vorrei incontrare soprattutto il mostro, quello che ho considerato un mostro, Giovanni Senzani, il capo del gruppo che organizzò e decise il sequestro e l'esecuzione. Vorrei incontrarlo, riuscire a vederlo come persona, ascoltarne le ragioni, fare domande e sentirne le risposte. Vorrei perdonarlo per coltivare sentimenti che non siano di rabbia, di vendetta, ma prima ho bisogno di vederlo in faccia. Non sono cattolica, ma mi servirebbe per andare avanti, per chiudere un cerchio della mia vita. Giovanni Bianconi racconta questa storia molto toccante a pagina 24 del Corriere, proprio nel giorno in cui è stata inaugurata una via Roberto Peci, al padre di Roberta Peci, a San Benedetto del Tronto. Eccoci alle 7:35 minuti. Allora, la politica oggi sui giornali vede sviluppate due notizie. La prima è questa: oggi a pranzo nella residenza del Premier ad Arcore ci sarà l'incontro tra Tremonti, Berlusconi per l'appunto, e Bossi, oltre ovviamente ai loro più stretti collaboratori. C'era anche Angelino Alfano, neo segretario designato del Popolo della Libertà. Il governo al vertice decisivo su economia e asse con la Lega, così titola il Corriere a pagina 14, Marco Galluzzo, e tutti i commentatori politici si chiedono che succederà in questo vertice, cosa fare. Quando oggi Tremonti, Bossi e Berlusconi si troveranno ad Arcore insieme a un pezzo di Stato Maggiore leghista, si domanderanno cosa fare e nessuno di loro, scrive il Corriere, sembra avere la risposta in tasca. Discuteranno certamente del nuovo ministro della giustizia, da nominare quando Alfano lascerà. E poi di che cosa? Certo di riforma fiscale, di come rilanciare dopo la sconfitta elettorale l'alleanza di governo entro il 2013. E beh, il piano, questo nei retroscena di tutti i giornali, il piano del Premier, secondo il Corriere, è questo. Prima di tutto la riforma fiscale, anche perché, racconta chi l'ha sentito, secondo Berlusconi, insieme alla martellante campagna di TV e giornali contro di lui e contro il governo, quello della mancata riforma fiscale è la ragione determinante dell'insuccesso elettorale. Ci può essere un appannamento legato alle vicende giudiziarie, avrebbe detto Berlusconi, ma tutte le nostre analisi mostrano che le vere ragioni sono quelle. Dunque, il tema è quello della riforma fiscale, ma soprattutto il secondo tema è questo: il pressing, pare, della Lega di dire beh, forse è il caso di andare al voto anticipato nel 2012. E su questo Berlusconi sarebbe pronto a non cedere neanche di un millimetro. Su Repubblica e La Stampa, infatti, viene posta così: per Repubblica, Bossi tentato di forzare la mano, svolta sul fisco o voto nel 2012. Questo è il retroscena di Carmelo Lo Papa, che trovate in prima pagina e poi sviluppato a pagina 3. Un Bossi che sarebbe intenzionato a sedersi oggi al tavolo con Berlusconi a dire o si cambia o sarà meglio andare al voto subito. Questo va ripetendo il Senatur. Tutti i riflettori certo però saranno puntati sul commensale Giulio Tremonti. Voglio vedere se con l'aiuto di Umberto, che come noi ha perso le elezioni per colpa del fisco e degli imprenditori delusi, riusciremo a convincere Giulio a cedere una volta per tutte. Questo sarebbe il pensiero dominante di Berlusconi. Insomma, si vedono effettivamente tre persone chiave della legislatura: il Premier, il leader della Lega e Giulio Tremonti, che dovranno appunto decidere come rilanciare la coalizione di governo. Secondo La Stampa, a pagina 2, Ugo Magri, il vertice per l'appunto oggi a Villa San Martino viene dipinto così: lo sgambetto di Bossi è l'incubo di Berlusconi. Oggi a pranzo il vertice decisivo ad Arcore, il pressing su Tremonti perché si ammorbidisca. E effettivamente il timore, secondo Ugo Magri, di Berlusconi è che la Lega rivolgerà oggi tutte quelle domande a Berlusconi che aveva fin qui rinviato. Va bene tirare avanti altri 2 anni, gli chiederanno, ma facendo cosa? La riforma del fisco, ok, ma con quali soldi? E la manovra per pareggiare i conti entro il 2014 non è che farà perdere il centrodestra alle prossime elezioni? Non sarà il caso di andare alle urne l'anno prossimo prima che i tagli producano i loro effetti? Queste le domande che dovrebbe Umberto Bossi porre a Silvio Berlusconi. A proposito di riforma fiscale, bisogna a questo punto fare un salto sul Sole 24 Ore, edizione del lunedì, perché ci sono dei dettagli importanti. Come detto in apertura, fisco, riforme vincolate, il primo atto, visto che pare proprio questo, la riforma fiscale, bene, i responsabili dei 4 tavoli tecnici stanno per consegnare al ministro dell'economia Tremonti i risultati delle ricognizioni svolte in questi mesi, che serviranno come basi per le ipotesi di intervento sul sistema tributario. Il vero nodo è rappresentato sempre da quello: le risorse, dove reperire le risorse necessarie per finanziare misure in grado di favorire la crescita. Ebbene, secondo il Sole 24 Ore, una possibile via dovrebbe essere quella di spostare un po', questo sarebbe l'asse di tutta la riforma fiscale, spostare l'asse del prelievo dalle persone alle cose, dunque meno tasse su lavoro e imprese e più sui consumi. Il riordino potrebbe offrire l'occasione per mettere mano all'IRAP, come chiesto più volte dalle categorie produttive, e neutralizzare la componente del costo del lavoro dalla base imponibile comporterebbe un alleggerimento del prelievo pari a circa 14 miliardi. mentre le risorse potrebbero arrivare dall'aumento delle aliquote IVA e anche dal riordino delle 476 agevolazioni esistenti oggi. Infine anche da una maggiore efficacia delle misure contro il sommerso e l'evasione, come al solito. Riforma fiscale al nodo della copertura, tutti i dettagli sono a pagina 3, ne parlano, ne scrivono per la verità Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente, iniziando l'articolo con «E se fosse la volta buona?», un po' come chiedono le imprese sulla riforma fiscale, che guardano appunto a questa come possibile rilancio dell'economia. L'asse comunque del portante di tutta la riforma pare proprio questa, una direttrice che è tracciata, spostare il prelievo dalle persone alle cose. Staremo a vedere, certo, oggi questo vertice politico qualcosa dirà di più. Il secondo tema sviluppato, beh, certo, è quello del referendum, è la settimana finale decisiva prima del referendum, anche se, attenzione, sul referendum, soprattutto sul nucleare, non è ancora detta l'ultima parola, perché domani la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi se accettare e giudicare ammissibile che cosa? Un ricorso fatto dal governo tramite l'Avvocatura di Stato per cercare di bloccare il referendum sul nucleare, che, lo ricordiamo, prima è stato ammesso, poi c'è stato un decreto legge che ha sostanzialmente, nell'ottica del governo, doveva rendere la consultazione inutile, ma la Corte di Cassazione ha deciso invece che il referendum si può fare lo stesso anche se è cambiata un po' la legge sul nucleare. A questo punto c'è un ricorso dell'Avvocatura di Stato, dunque del governo, presso la Corte Costituzionale, che domani dovrà esprimersi con il via definitiva, il via libera definitivo oppure lo stop definitivo a questo referendum. Dunque pende ancora c'è ancora un punto di domanda sul referendum sul nucleare. A proposito di nucleare, si registra che cosa? Beh, e sui referendum varie interviste, comincia insomma a esserci un po' più di informazione anche sui giornali. Vi segnalo per esempio due interviste, il ministro, l'ex ministro Ronchi, colui che ha voluto, si è battuto per le liberalizzazioni, per le questioni dell'acqua, della liberalizzazione dei servizi pubblici, l'apertura ai privati per la gestione dell'acqua, dice in un'intervista del Corriere: Future Libertà non sceglie o dirà sì, questo è inaccettabile, ne terrò conto. Ronchi che dice: io voterò assolutamente no. È inaccettabile che Future Libertà non dia indicazione sui referendum, e lui, che è sempre stato in procinto, pare, di lasciare il partito di Fini, ora pare che dice terrò conto di questa inaccettabile posizione del partito. Mentre sempre sui referendum si registrano quelli che vengono definiti sulla stampa cani sciolti alle urne, o la carica degli eretici, o su Repubblica anche i governatori, per esempio, che voteranno contro, pare, le indicazioni della maggioranza, perché il tema del nucleare è sempre stato un tema molto che ha spaccato molto i politici, e molti governatori, per esempio, quando si trattava di dire ma voi la fareste una centrale nucleare sulla vostra regione, si trinceravano dietro delle fantomatiche no, noi siamo autonomi dal punto di vista energetico, lo facciano da un'altra parte, che è un concetto che non vuol dire assolutamente nulla, ma che è un modo per dire no al nucleare, anche governatore di centrodestra. Quindi, per esempio, Cappellacci, il presidente della Sardegna, intervistato da Repubblica, del Popolo della Libertà, dice: non tradisco il centrodestra, ma voterò no contro l'atomo. Voterò contro l'atomo, quindi voterò sì, voterò contro il nucleare. Eppure non mi sento un traditore. Un'altra sui quali sono accesi i riflettori è il ministro Prestigiacomo, il ministro dell'ambiente, famosa per aver detto all'epoca, un paio di mesi fa, in Parlamento: non facciamo cazzate, ormai il nucleare è una cosa, è una pratica chiusa. Ebbene, secondo la stampa, pagina 5, il ministro dell'ambiente Prestigiacomo potrebbe votare sì al quesito sul nucleare, dunque contro il nucleare. Insomma, e anche Miccichè, sottosegretario, dice, per esempio: io voterò sì ai referendum sull'acqua, perché l'acqua deve rimanere un bene gestito dal pubblico. Insomma, ci sono un po' di cani sciolti, insomma, politicamente, di persone che possono, che votano, che decidono di votare un po' contro le indicazioni dei propri partiti. Come detto, in prima pagina del Corriere della Sera, per cambiare tema, c'è una lettera del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che risponde a un articolo del dello scrittore Claudio Magris, che aveva parlato di indifferenza nei confronti delle morti dei migranti, l'ultima tragedia al largo della Tunisia, una reazione morale contro l'indifferenza di Giorgio Napolitano in prima pagina del Corriere. Caro Magris, lei ha dolorosamente ragione. Inizia così la lettera del capo dello Stato. Tocca a noi tutti l'assuefazione alle tragedie dei profughi in cerca di salvezza o di una sopravvivenza meno miserabile che periscono in mare. Le notizie relative ai 200, forse 300 esseri umani scomparsi giorni fa in acque tunisine, non riuscendo a salvarsi da un barcone travolto dalle onde, sono sparite dai giornali e dai telegiornali prima ancora che si sapesse qualcosa di più sull'accaduto. E ancora scrive Napolitano, non si è trattato di un fatto isolato, ma di un susseguirsi negli ultimi mesi di tragedie simili. Ma se in qualche modo istintiva la assuefazione, è fatale anche che essa induca l'indifferenza? A me pare che sia questa la soglia che non può e non deve essere varcata. Occorre scongiurare il rischio di ogni scivolamento nell'indifferenza, occorre reagire con forza all'indifferenza, oggi e in concreto rispetto all'odissea dei profughi africani in Libia o di quella parte di essi che cerca di raggiungere le coste siciliane come porte della ricca e accogliente Europa. Stroncare questo traffico, prevenire nuove e continue partenze per viaggi della morte, aprirsi all'accoglienza. Questo è il dovere delle nazioni civili, della comunità europea internazionale, il dovere della democrazia. E poi conclude Napolitano la sua lettera. La ringrazio, caro Magris, per la sua sollecitazione che ho sentito come rivolta anche a me, come rivolta di certo a tutti gli italiani. La lettera di Giorgio Napolitano a pagina, in prima pagina, poi pagina 3 del Corriere della Sera. Ci fermiamo per il traffico. Allora, ci sono anche molte pagine ancora dedicate al calcio scommesse. Cari ascoltatori, cari calciofili, la situazione è questa. La macchia di fango si sta allargando e sta prepotentemente travolgendo anche la Serie A. Secondo Repubblica, ecco le squadre di Serie A coinvolte. Cari tifosi di Roma, Fiorentina, Genoa, Lecce e Cagliari. Secondo Repubblica, ecco le partite truccate, ecco le cinque squadre coinvolte secondo l'accusa della procura di Cremona. E beh, insomma, non solo dunque l'Atalanta, tra l'altro il Corriere dice che sull'Atalanta addirittura pare che la società sapesse, questa pagina 9 del Corriere è davvero incredibile, l'Atalanta intesa come società sarebbe stata al corrente che alcuni risultati della squadra nella stagione in corso sarebbero stati pilotati. Questo vorrebbe dire, se confermato, una sanzione pesantissima. Ora invece diventa nel mirino anche il Siena, insomma le due squadre che sono state promosse in Serie A. E poi appunto queste squadre di Serie A che ho citato, le ripeto, Roma, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Genoa sarebbero le squadre di Serie A coinvolte. C'è un'intervista a Gianni Rivera sul Corriere della Sera, a pagina 10, intervistato da Marco Imarisio, dice: noi cercavamo di essere un esempio mentre questi ragazzi ormai sono solo degli arraffoni. Gli eroi della domenica hanno smesso di essere tali da un bel pezzo, anche ai miei tempi non era facile quando smettevi la carriera, ma qui mi dà l'idea di persone incapaci di gestire le proprie vite, gente che ha perso il contatto con la realtà, che ha voglia di arraffare il più possibile da una tavola che per loro sarà imbandita ancora per poco. Paura del dopo, ma che semplice ingordigia, riflesso di un materialismo che non è presente solo nel calcio. Così Gianni Rivera, mentre si sfoga il capitano dell'Atalanta Cristiano Doni, intervistato da Repubblica pagina 15 da Paolo Berizzi, dice: mi viene da pensare che mi vogliono far passare per capro espiatorio, mi stanno infangando, non c'è una sola telefonata che mi riguardi direttamente nella quale ci sia la mia voce, ci sono solo persone che fanno il mio nome, sono dei millantatori. Dove sono le prove? Su cosa si basano le accuse? È facile fare il nome di qualcuno, poi magari si scopre che non c'entrava niente. Mentre come definire in tutta questa vicenda quello che ha combinato Mario Balotelli? Ormai insomma bisognerebbe quasi scriverne un catalogo. E chi lo sa, Super Mario si difende così: non sapevo chi fossero quelli, chi sono quelli. Beh, Mario Balotelli, che un giorno nel giugno, 8 giugno 2010, era a Napoli per ritirare un premio, ha deciso che voleva andare a vedere il famoso spaccio della droga nelle vele di Scampia. E allora è stato accompagnato, e secondo un'informativa dei carabinieri è stato accompagnato da due boss della camorra due pezzi grossi, Biagio Esposito degli scissionisti, Salvatore Silvestri dei Lo Russo. Ad accompagnarlo, insomma, non due guaglioni, ma due pezzi grossi, racconta Fulvio Buffi sul Corriere della Sera. E in questa informativa dei carabinieri pare che Balotelli sia andato lì a visitare i famigerati luoghi dello spaccio con tanto di permesso, non è che si può entrare così, insomma, ma con tanto di permesso da parte della camorra e con tanto di fotoricordo fatta da Balotelli anche agli spacciatori e ai drogati in coda. Questa è l'accusa, per dire, anche la camorra aveva legami molto stretti con campioni di calcio, e dunque a Napoli si indaga anche su quello. È un'altra inchiesta rispetto a quella di Cremona. Vabbè, che dire, per la cronaca, visto che siamo in rapida chiusura, voglio segnalare che cosa? Santoro pare sempre più vicino alla 7, ormai pare che nelle prossime ore, si racconta sui giornali, Lorenza Lei, il nuovo direttore generale della RAI, potrebbe riuscire lì dove non è riuscito Mauro Masi, cioè accompagnare Michele Santoro fuori dalla RAI. Forse nelle prossime ore il direttore generale incontrerà il conduttore per cercare di trovare un accordo. Anche Fabio Fazio sembra sempre più vicino alla 7. La 7 che dice con Mentana li accoglieremo a braccia aperte, mentre l'inviato di Anno Zero Formigli dice i nostri spettatori ci vogliono e ci vedono meglio su una TV indipendente. Poi c'è ancora del batterio killer, allora pare che la ragione del batterio killer sia nei germogli di soia, questo hanno decretato dalla Germania, i germogli di soia mangiati crudi. Con il dietologo Giorgio Calabrese sulla Stampa che dice sono poco usati in Italia, niente allarmismi, certo, però sono usati soprattutto nelle diete dei vegetariani. E infine voglio citare in prima pagina del Sole 24 Ore un'interessante ricerca che è stata fatta su qual è il borgo più felice, la classifica dei borghi felici dove si vive meglio, cioè le piccole cittadine, i 260 comuni analizzati sotto 49 indicatori, l'istruzione, la cultura, la partecipazione alla vita politica, i rapporti sociali, l'ambiente, l'attività personale e la salute. Ecco i primi 100 borghi, ve ne leggo due o tre. Il primo è Bardolino in provincia di Verona, poi Brunico in provincia di Bolzano al secondo posto, quindi Sirmione in provincia di Brescia, poi Appiano in provincia di Bolzano e Saluzzo in provincia di Cuneo. Questo, secondo la classifica che trovate sul Sole 24 Ore in prima pagina e segue a pagina 9, i 5 borghi d'Italia dove il benessere è al top.